Europa 24. L'agenda sull'immigrazione è stata presentata ieri, ma l'iter per la sua attuazione richiederà tempo. Il primo passo sarà tradurre in progetti legislativi le proposte della Commissione e sottoporli a Parlamento e Consiglio UE, con l'obiettivo di arrivare pronti per il vertice dei capi di Stato e di Governo del 25 e 26 giugno. Ma non sarà facile. Nello specifico delle quote obbligatorie di ricollocazione dei migranti, Parigi e Berlino si sono già detti favorevoli, ma Londra e molti paesi dell'Est no. La proposta legislativa su questo tema sarà elaborata dal Collegio dei Commissari del 27 maggio, quindi non prima degli inizi di giugno arriverà al Parlamento e ai ministri dell'interno della UE che la potranno discutere nel Consiglio del 15 giugno. Nel frattempo, la Commissione dovrebbe aver elaborato la sua raccomandazione al Consiglio europeo sulla questione del reinsediamento di 20.000 richiedenti protezione internazionale dai campi profughi. Partirà prima, ma arriverà sul tavolo dei 28 nello stesso vertice di fine giugno, la discussione dell'eventuale operazione militare in Libia contro i trafficanti di uomini. Se ne parlerà dal lunedì prossimo tra i ministri degli esteri e della difesa della UE. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. NATO e UE hanno natura diversa, ma devono affrontare sfide comuni e nuove minacce, lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini, intervenendo al vertice ministeriale della NATO che si chiude oggi in Turchia. Le tensioni con la Russia sul dossier ucraino e le crisi nel sud, Libia e immigrazione, i temi sul tavolo dei colloqui fra il capo della diplomazia europea e i rappresentanti dell'Alleanza Atlantica. UE e NATO hanno nature diverse, ma valori comuni, ha detto ancora la Mogherini. L'UE non necessariamente risponde alle crisi con un approccio militare, ma non possiamo tagliare fuori un aspetto militare del nostro lavoro. Ha dedicato un vasto capitolo all'Europa Sergio Mattarella nel suo discorso al Salone del Libro di Torino questa mattina. Il mondo ha bisogno di più Europa a partire dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ha detto il capo dello Stato, che è tornato sul mercato unico digitale. È molto importante del resto che la Commissione europea abbia ribadito il ruolo prezioso dell'editoria insieme alle altre industrie creative nella strategia per il mercato unico digitale. Dall'attuazione del mercato unico digitale l'intera Unione attende risultati significativi in termini di crescita e di occupazione. Ovviamente anche l'Unione Europea ha dei doveri. Deve soprattutto cercare di ridurre i gravi squilibri che sono creati al proprio interno e favorire anziché bloccare i fattori di sviluppo. Il nostro Paese, a partire dalla legge di stabilità del 2015, ha portato l'IVA per i book, i libri elettronici, appunto, al 4%, come per i libri di carta. Una simile misura è stata adottata anche da altri paesi nell'Unione e l'auspicio che questa divenga nell'Unione una regola condivisa e comunque che questa regola non venga ostacolata. L'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali, l'EIOPA, annuncia gli stress test per i fondi pensione occupazionali europei e una valutazione della solvibilità delle istituzioni che le amministrano. L'obiettivo degli stress test è quello di valutare quando i fondi pensione europei siano in grado di reggere alle oscillazioni del mercato, anche alla luce della vulnerabilità causata dal lungo periodo di bassi interessi insieme ad altri fenomeni finanziari. I fondi pensione sono di fronte ad una grossa sfida sia per il crollo dei tassi che per l'allungamento dell'aspettativa media di vita, ha detto Gabriele Bernardino, presidente dell'Autorità Europea. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.